siamo qui oggi nel primo giorno dell'assemblea pubblica sulla casa. L'assemblea è uno strumento previsto dal neocostituito osservatorio sul sistema abitativo bolognese. L'osservatorio è stata una richiesta, diciamo, che veniva dalle associazioni, dai movimenti, dai sindacati, dai proprietari inquilini, di costituire un luogo in cui analizzare il fenomeno dell'emergenza abitativa, della difficoltà nell'accesso all'abitare in città. E così l'abbiamo costruito insieme agli altri enti che producono direttamente politiche pubbliche sull'abitare, quindi la Regione, la Città Metropolitana, l'Università di Bologna e la Fondazione per l'Innovazione Urbana e ACER. Sono qua con il direttore del settore delle politiche abitative, Marco Guerzoni. Abbiamo presentato un mese fa il piano per l'abitare di Bologna. Ora, dopo averne illustrato, diciamo, le linee di indirizzo, le linee di intervento del nostro comune, sia in termini di strategie che di interventi diretti sul breve, medio e lungo periodo, andiamo a discutere con i soggetti che in città si occupano di casa. Ci sono moltissime iscrizioni, più di 56 soggetti collettivi che vanno dalle rappresentanze studentesche fino ai sindacati degli inquilini, ma anche dei piccoli proprietari, soggetti immobiliari che realizzano interventi in città, associazioni, collettivi, quindi davvero sarà una discussione molto ricca. I cui esiti verranno comunque verbalizzati, consegnati ai soggetti che appunto con noi producono le politiche per l'abitare, e con loro, con tutti i soggetti, discuteremo poi anche appunto dell'attuazione del piano per l'abitare, raccoglieremo anche input e suggerimenti, penso per esempio alla costruzione dell'agenzia sociale per l'affitto, naturalmente, che è una politica del mandato che stiamo andando a realizzare e che beneficerà quindi anche del punto d'osservazione di questi soggetti. Ci sono state diverse occupazioni anche abitative in città, si parla spesso di soluzioni non definitive naturalmente, ma ponte. Può esserci un'apertura da parte del comune su queste cose, anche dialogando, penso a Via Raimondi, banalmente. Il caso di Via Raimondi è un caso all'attenzione dell'amministrazione, si stanno valutando le situazioni abitative delle persone che lì stanno. È un edificio, come si sa, che verrà consegnato dalle politiche abitative perché ha già ottenuto un finanziamento del PNRR per realizzare alloggi di transizione, aumentare la nostra dotazione in questo senso. Con diversi soggetti collettivi in città si sta discutendo comunque di nuove politiche per l'abitare, anche di interventi di autorecupero, di come immaginare soluzioni abitative a basso costo per famiglie, lavoratori e lavoratrici in difficoltà. E anche nel piano per l'abitare stiamo fortemente aumentando l'offerta pensata per quella fascia grigia che ad oggi è molto in difficoltà e che è aumentata negli ultimi anni, di chi non riesce ad accedere a una casa popolare ma neanche a sostenere un affitto a libero mercato, quindi anche per quella fascia che ha realizzato alcune occupazioni in città. Ieri il sindaco Matteo Lepore ha lanciato, diciamo, questa richiesta al governo di mettere a disposizione le caserme militari vuote per farsi degli alloggi popolari studenteschi. Secondo lei è una strada percorribile questa? Sì, è una delle proposte che abbiamo fatto nella 3 giorni per il piano per l'abitare. C'è stato un tavolo che si è chiamato un'alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa, in cui con altri 10 assessori e assessori alla casa abbiamo fatto 5 proposte al governo nazionale per tutelare il diritto all'abitare in maniera strutturale, e una di queste era proprio dare ai comuni, assegnare ai comuni o aree dismesse o i grandi vuoti urbani statali o parastatali che insistono sulle nostre città, che potrebbero appunto invece essere convertiti magari anche con delle linee di finanziamento strutturali a studentati o a edilizia residenziale sociale, in modo da dare risposta proprio a quella fascia che ne ha bisogno. Ci sei risposta al governo? No, ad ora non c'è stata risposta, c'è un'interlocuzione con la ministra Bernini, c'è stata un'interlocuzione anche con la ministra Santanchè sulla regolazione degli affitti turistici, ma non c'è ancora stata risposta alle 5 proposte lanciate da noi assessori e assessori alla casa di tutta Italia, anche se è un piano in evoluzione, continueremo a portare avanti la proposta anche con l'ANCI. Cosa vi aspettate dall'assemblea? C'è margine di manovra per correggere il piano sulla base degli input che riceverete oppure? Certo, ci interessa dialogare veramente, è un'assemblea che abbiamo previsto anche perché pensiamo che dialogare con i soggetti che sono attenti alle politiche per l'abitare sia fondamentale, sia anche capace di produrre discontinuità nelle politiche per l'abitare. Io penso che il 2019 l'istruttoria pubblica sul disagio abitativo, creata con la raccolta firme dal basso delle associazioni, dei movimenti, dei collettivi, sia stato un punto di svolta per l'abitare in questa città e abbia determinato in qualche modo anche l'agire amministrativo di questo mandato. Quindi la discussione è reale con chi appunto vuole portare un punto di vista all'interno del soggetto che abbiamo creato per discutere tutte e tutti insieme. Zero consumo di suolo resta un... assolutamente. Abbiamo un target molto importante, che è quello di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, e quindi chiaramente le nostre azioni in tutti i campi sono tese a ridurre le emissioni. Penso agli interventi di superbonus e di riqualificazione energetica che stiamo facendo anche nelle nostre corti popolari, senza precedenti anche rispetto alla media nazionale. Verranno riqualificati più di 2000 alloggi solo dal punto di vista energetico, e sappiamo che questo impatta sia sulla povertà energetica sia sulla riduzione delle emissioni. Il 70% delle emissioni nella nostra città è prodotto dagli edifici, quindi intervenire sugli edifici è una priorità di questo mandato amministrativo. L'assemblea quanto dura? L'assemblea sarà oggi il 15 e il 23, proprio perché avendo avuto tantissime iscrizioni, 56 soggetti collettivi, abbiamo voluto prevedere appunto il tempo per tutte e tutti di poter portare un contributo. Ieri c'è stato questo nuovo episodio di sfratto, Asia parla di sgombero violento, Acer dice che non c'è stato nessun disordine in realtà, che era un atto dovuto. Come valuti l'episodio? Valuto che sono preoccupata per l'utilizzo strumentale di un caso di disagio abitativo, e invito tutti i soggetti che vogliono produrre una discontinuità anche nelle politiche per l'abitare a farlo nelle sedi opportune e a parlare di politiche per la casa. Lì ci saremo in tante e tanti, avremo anche opinioni diverse, ma quello che non possiamo accettare sono i fatti diversi. Nessuno ha il diritto ai propri fatti, ognuno ha il diritto alle proprie opinioni. C'era una persona che è stata oggetto di una procedura perché c'era una grave inadempienza contrattuale, non faceva accedere all'alloggio per le ristrutturazioni, le manutenzioni necessarie anche a non danneggiare alloggi di altre persone, non pagava il canone da più di 10 anni, ha avuto soluzioni adatte al proprio reddito alternative per mesi, proposte più di una volta dai servizi sociali. È un caso che è stato trattato anche al protocollo sfratti, oggetto di attenzione da parte dei nostri servizi sociali. Consigliare a questa persona di rifiutare una soluzione che era adatta alle sue esigenze pur di portare avanti una protesta politica strumentalmente contro l'amministrazione non fa fare un passo avanti né al soggetto né, a mio avviso, al collettivo. Questa naturalmente rimane una loro valutazione, però io intendo portare avanti un diritto alla casa per quante più persone possibili in questa città, insieme a tutti coloro che vorranno fare un passo avanti in questa direzione.